Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Tony Servillo legge Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Il capitano Bellodi, emiliano di Parma, per tradizione familiare repubblicano e per convinzione, faceva quello che in antico si diceva il mestiere delle armi e in un corpo di polizia, con la fede di un uomo che ha partecipato a una rivoluzione e dalla rivoluzione ha visto sorgere la legge. E questa legge che assicurava libertà e giustizia, la legge della Repubblica, serviva e faceva rispettare. E se ancora portava la divisa, per fortuite circostanze indossata, se non aveva lasciato il servizio per affrontare la professione di avvocato a cui era destinato, era perché il mestiere di servire la legge della Repubblica e di farla rispettare diventava ogni giorno più difficile. Sarebbe rimasto smarrito il confidente a sapere di avere di fronte un uomo, carabiniere e per giunta ufficiale, che l'autorità di cui era investito considerava come il chirurgo considera il bisturi, uno strumento da usare con precauzione, con precisione, con sicurezza, che riteneva la legge scaturita dall'idea di giustizia e alla giustizia congiunto ogni atto che dalla legge muovesse. Un difficile e amaro mestiere, insomma, ma il confidente lo vedeva felice, la felicità della forza e del sopruso, tanto più intensa quanto più grande la misura di sofferenza che ad altri uomini si può imporre. Parrinieddo svolgeva il suo disegno di menzogna come il venditore sul banco del negozio i tocchi di cotonina alle donne di campagna. Il soprannome, che voleva dire piccolo prete, gli veniva dall'eloquio facile e dall'ipocrisia che trasudava. Ma la sua abilità si incrinava di fronte al silenzio dell'ufficiale. Le parole gli venivano fuori venate di pianto o stridule e il disegno che svolgeva si faceva incoerente, incredibile. «Lei non crede?» domandò a un certo punto il capitano tranquillamente, con tono di amichevole confidenza. «Lei non crede che sia più utile cercare altre connessioni?» Dalla glottide emiliana, per le due S, la parola restò sospesa e baluginante e per un momento distrasse gli spasmi del confidente. Parrinieddu non rispose. «Non crede alla possibilità che con la sberna sia stato fatto fuori per ragioni di interesse, diciamo, per non aver accettato certe proposte, per aver continuato, nonostante le minacce, a prendere tutto quello che riusciva a prendere in fatto di appalti?» Coloro che avevano preceduto in quell'ufficio il capitano Bellodi usavano rivolgere al confidente domande che, in esplicita premessa o nella minaccia del tono, facevano apparire ai suoi occhi il confino di polizia o la denuncia per esercizio d'usura. E ciò dava a Parrinieddu, invece che paura, una certa sicurezza. Il rapporto era chiaro, gli sbirri lo costringevano a fare infamità e lui doveva farne quel tanto che bastava ad acquietarli, a tenerseli buoni. Ma con uno che ti parla con gentilezza, con confidenza, le cose si mettono in altro verso. Perciò, alla domanda del capitano, con un movimento disarticolato delle mani e della testa, fece che sì, era possibile. «E lei?» continuò il capitano senza mutare tono. «Non sa di qualcuno che è interessato a queste cose? Non dico di quelli che ci lavorano, di quelli che non ci lavorano, voglio dire, e sono interessati ad aiutare, a proteggere. A me basterebbe sapere il nome di chi, qualche mese addietro, ha fatto certe proposte a Colasberna. Proposte, intendiamoci, solo proposte.» «Io non so niente», disse il confidente. E dalla gentilezza del capitano sollecitata, la sua vocazione di spia si alzò come allodola. Trillò alta la gioia di regalare sofferenza. «Non so niente, ma...» Tirando a indovinare all'oscuro, «posso dire che le proposte le avrà fatte Ciccio la Rosa o Saro Pizzuco.» E già quel verticale volo di gioia diventava caduta, pietra che precipitava al centro del suo essere, della sua paura. «Ancora un'interrogazione in Parlamento», disse Sua Eccellenza. «Sei a conoscenza dei recenti gravi fatti di sangue accaduti in Sicilia e quali misure intende ordinare, eccetera, eccetera, i comunisti, al solito. A quanto pare si riferiscono all'omicidio di quel tale appaltatore, come si chiamava? Colasberna, Eccellenza». «Colasberna. Era un comunista, a quanto pare. Socialista, Eccellenza. Questa distinzione voi la fate sempre. Siete testardo, amico mio, lasciatemelo dire. Comunista, socialista, che differenza c'è? Allo stato attuale, per carità, non mi date spiegazioni. Qualche volta i giornali li leggo anche io, sapete. Ma non mi permetterei mai. Bravo. Dunque, ad evitare che questo Colasberna, diventi un martire dell'idea comunista, scusate, socialista, bisogna subito trovare chi lo ha ammazzato. Subito, in modo che il ministro possa rispondere che Colasberna è stato vittima in una questione di interesse o di corna e che la politica non c'entra per niente. Le indagini procedono bene. È senza dubbio un delitto di mafia, ma la politica non c'entra. Il capitano Bellodi, chi è Bellodi? Comanda la compagnia di C. Si trova in Sicilia da qualche mese. Ecco, ci siamo. È da un pezzo che debbo parlarvi di questo Bellodi. Questo qui, caro amico, è uno che vede mafia da ogni parte. Uno di quei settentrionali con la testa piena di pregiudizi che appena scendono dalla nave traghetto cominciano a vedere mafia ovunque. E se lui dice che Colasberna è stato ammazzato dalla mafia, stiamo freschi. Io non so se avete letto quello che ha dichiarato a un giornalista qualche settimana fa a proposito del sequestro di quell'agricoltore. Come si chiamava? Mendolia. Ha detto cose da far rizzare i capelli. Che la mafia esiste, che è una potente organizzazione, che controlla tutto, pecore, ortaggi, lavori pubblici, vasi greci. Ma questa dei vasi greci è impagabile, roba da cartolina del pubblico. Ma dico, per Dio, un po' di serietà. Voi ci credete alla mafia? Ecco, e voi? Non ci credo. Bravissimo. Noi due siciliani alla mafia non ci crediamo. Questo a voi che a quanto pare ci credete dovrebbe dire qualcosa. Ma vi capisco, non siete siciliano e i pregiudizi sono duri a morire. Col tempo vi convincerete che è tutta una montatura. Ma intanto, per carità, seguite attentamente le indagini di questo Bellodi. E voi che alla mafia non ci credete, cercate di fare qualcosa. Mandate qualcuno che sappia fare, che non pianti una grana con Bellodi, ma che ima summis mutare. Capite il latino? Non quello d'Orazio. Il mio, voglio dire. Da 5 giorni Paolo Nicolosi, di mestiere potatore, nato a B, il 14 dicembre 1920, domiciliato e residente a S, al numero civico 97 di via Cavour, era scomparso. Al 4° giorno la moglie era tornata in disperazione dal maresciallo e il maresciallo aveva cominciato a preoccuparsi sul serio. Il rapporto era sul tavolo del capitano Bellodi e sottolineato in rosso era quel numero civico 97 di via Cavour. Il capitano passeggiava per la stanza nervosamente fumando. Aspettava che dal casellario e dalla procura gli portassero notizie su Paolo Nicolosi, se era un pregiudicato o se aveva carichi pendenti. Dall'angolo via Cavour, piazza Garibaldi, avevano sparato a Colasberna. Fatto il colpo, l'assassino non era certo venuto avanti nella piazza, dove c'era l'autobus con una 50ina di persone dentro e il venditore di panelle fuori, a 2 passi dal morto. Era logico pensare che fosse scappato per la via Cavour. Al numero 97 di quella via abitava il Nicolosi. Erano 6:30. Il Nicolosi doveva andare a Potare, in contrada Fondachello, diceva il rapporto, a piedi circa 1 ora di strada. Forse mentre l'assassino scappava per via Cavour, Nicolosi usciva di casa. Aveva riconosciuto l'assassino. Ma chissà quante altre persone l'avevano visto. L'assassino poteva star sicuro del silenzio di Nicolosi, come di quello del venditore di panelle e degli altri, ammesso che l'assassino fosse persona identificabile del luogo o nel luogo conosciuta. E certo in un delitto di quel genere era un sicario venuto da fuori. L'America insegna. Niente fantasia, gli aveva raccomandato il maggiore. Va bene, niente fantasia. La Sicilia è tutta una fantastica dimensione. E come ci si può star dentro senza fantasia? Niente, soltanto i fatti. I fatti erano questi. Un certo Colasberna era stato ammazzato mentre stava per salire sull'autobus per Palermo, in piazza Garibaldi, alle 6:30 del mattino. L'assassino aveva sparato dall'angolo via Cavour piazza Garibaldi e per la via Cavour era fuggito. Lo stesso giorno, alla stessa ora, un tale che abita nella stessa via Cavour usciva o stava per uscire di casa. Avrebbe dovuto tornare la sera, come al solito, ad ora di Ave Maria, dice la moglie, ma non torna, e così per 5 giorni. Alla masseria di Fondachello dicono di non averlo visto. Lo aspettavano quel giorno, ma non si è fatto vivo, scomparso. Col mulo e gli arnesi di lavoro, tra la porta di casa sua e la masseria di Fondachello, 6-7 chilometri di strada, era scomparso, senza lasciar traccia. Se il Nicolosi fosse risultato pregiudicato o comunque legato alla malavita, si poteva anche pensare ad una fuga, o che gli avessero saldato un conto ammazzandolo e facendone scomparire ogni traccia. Ma se non era pregiudicato, se non c'erano per lui ragioni di una fuga più o meno meditata, se non era uomo da avere conti da rendere o da pretendere per legami diretti o indiretti con la malavita, allora la sua scomparsa veniva a coincidere in concreto e niente fantasia con l'uccisione di Colasberna. In quel momento il capitano non metteva in conto la possibilità che nella scomparsa di Nicolosi potesse in qualche modo entrare la moglie. Quei motivi passionali, cioè, che per la mafia e la polizia sono in egual misura una gran risorsa. Da quando nell'improvviso silenzio del golfo dell'orchestra il grido «hanno ammazzato compari Turiddu» aveva per la prima volta abbrividito il filo della schiena agli appassionati del teatro d'opera, nelle statistiche criminali relative alla Sicilia e nelle combinazioni del gioco del lotto, tra corna e morti ammazzati si è istituito un più frequente rapporto. L'omicidio passionale si scopre subito ed entra dunque nell'indice attivo della polizia. L'omicidio passionale si paga poco ed entra perciò nell'indice attivo della mafia. La natura imita l'arte. Ammazzato sulle scene liriche dalla musica di Mascagni e dal coltello di compare Alfio, Turiddu Macca cominciò a popolare le mappe turistiche della Sicilia e i tavoli d'autopsia. Ma qualche volta, di coltello o di lupara, non più di musica, per fortuna, la peggio toccava ai compari Alfio, e il capitano Bellodi, in quel momento, non sapeva tenerne conto, e questa distrazione avrebbe pagato con una piccola censura. Dalla procura e dal casellario i brigadieri D'Antona e Pitrone portarono il nulla relativo a Paolo Nicolosi. Niente condanne, niente carichi pendenti. Il capitano ne ebbe soddisfazione e impazienza. Impazienza di correre a esse, di parlare con la moglie di Nicolosi, con qualche amico dell'uomo scomparso, col maresciallo, e di interrogare quelli della masseria di Fondachello e poi, valutata l'opportunità, quei tali La Rosa e Pizzuco che il confidente gli aveva segnalato. Si era già fatto mezzogiorno. Ordinò che preparassero la macchina e scese di corsa. Una eccitazione di canto gli cresceva dentro e davvero canticchiava scendendo allo spaccio e mangiò 2 tramezzini e bevve bollente un caffè. Un caffè che il carabiniere barista gli faceva speciale, nella speciale quantità di caffè e abilità di farlo che un napoletano, com'era il carabiniere barista, poteva impiegare per riscuotere la speciale stima di un superiore. La giornata era fredda ma luminosa, il paesaggio nitido. Gli alberi, i campi, le rocce davano l'impressione di una gelida fragilità. come se un colpo di vento o un urto potesse frantumarli in un suono di vetro. E come vetro l'aria vibrava del motore della 600, e grandi uccelli neri volavano come dentro un labirinto di vetro, improvvisamente virando o strapiombando o verticalmente avvitando in su il loro volo come tra invisibili pareti. La strada era deserta. Sul sedile posteriore il brigadiere D'Antona teneva il mitra con la bocca fuori del finestrino, il dito sul grilletto. In quella strada, un mese avanti, la corriera che da S andava a C era stata fermata e tutti i viaggiatori derubati. I rapinatori, tutti giovanissimi, erano già nel carcere di San Francesco. Tony Servillo ha letto Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.